Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'aiatropa è una pianta con molte qualità. Produce un seme, una specie di grossa mandorla ricurva, ricchissimo di oli vegetali e di proteine, e cresce questa pianta facilmente in condizioni difficili, su terreni poveri e con poca acqua. Per queste ragioni l'aiatropa è da anni sotto la lente della ricerca applicata, in quanto tra le specie più promettenti al mondo per la produzione di biocombustibili e più in generale anche per la possibilità di coltivarla in aree semideserte, dove comunque l'agricoltura intensiva tradizionale fallisce. Tuttavia, finora le grandi promesse circolate intorno alla iatropa non si sono tradotte in fatti. La iatropa rimane una coltivazione di secondaria importanza, e così anche l'industria che le ruota intorno. Tuttavia le cose potrebbero cambiare presto, e questo anche grazie al contributo di una giovane azienda fiorentina, Grois, 2 anni di vita, una startup che nel frattempo è già diventata SPA, che ha messo a punto una tecnologia innovativa per il frazionamento del seme di iatropa. Adesso capiremo il perché. Ne parliamo con il fondatore e nonché amministratore delegato di Agrois, Giovanni Venturini Del Greco. Buonasera Venturini. Buonasera a lei. Ecco questo titolo, sì, dunque, nobiliare. Sì. Confermo, la iatropa è una pianta che in effetti è salita agli onori della cronaca nel settore delle nuove energie da 7-8 anni, ma ancora non si è avverato questo sviluppo che in molti si auguravano. E in effetti questo è dovuto a due fattori principalmente. Il primo è che la pianta è una pianta che è stata coltivata nella sua diciamo natura più selvatica, versione selvatica. Anche i pomodori, esatto. Andiamo a vedere com'erano quelli originali, erano grossi come dei mirtilli, no? E per arrivare ai pomodori di adesso c'è stata una lunga selezione. Esattamente, quindi questo è stato il primo aspetto. Quindi c'è stato un lavoro in questi anni, non da parte nostra ma da parte di altri gruppi, società eccetera, che hanno investito in maniera significativa nel mettere a punto piante attraverso la selezione, il breeding e così via, piante che avessero delle produttività più elevate e soprattutto costanti, perché questo è l'altro aspetto importantissimo, no? Quindi avere una produttività costante da pianta a pianta. L'altro aspetto, sì, che ha condizionato lo sviluppo di questi progetti è stata la difficoltà nel valorizzare il coprodotto ottenuto dalla iatropa. Ecco perché la iatropa, esatto, ha tante come dire, caratteristiche interessanti, ma ha un grosso difetto: questo seme contiene anche una tossina. Di fatto rappresenta una barriera importante per la pianta, che appunto che gli consente di crescere in zone piuttosto difficili e proteggersi dagli animali. Ok, però questo fatto di avere questa tossina di fatto non consente una valorizzazione semplice dei coprodotti, cioè una volta ottenuto l'olio, ciò che mi rimane, che è 70%, 80% del mio prodotto iniziale, non so bene cosa farci, nonostante sia molto ricco di proteine. Addirittura più della soia, no? Sì. Questo seme è ricco di proteine, 60%, una cosa impressionante. Sì, e devo dire, insomma, la possibilità di valorizzare queste proteine anche in contesti dove ci sono dei deficit importanti a livello di nutrizione è qualcosa di estremamente interessante. Quindi il nostro sforzo come società si è focalizzato proprio su questo punto, secondo aspetto, sì. Dunque, noi abbiamo cambiato approccio, ci siamo slegati dalla tecnologia tradizionale di pressa meccanica, abbiamo guardato a un processo, diciamo, di estrazione che per certi versi ricorda un po' quello delle olive, va bene? E abbiamo cooptato questo processo, ovviamente con una serie di modifiche significative, ma sostanzialmente abbiamo introdotto una fase acquosa. Cioè, grazie all'introduzione di questa fase acquosa nel processo di estrazione, riusciamo a frazionare sostanzialmente le tre fasi principali, cioè l'olio, la fase più leggera, l'acqua e poi la fase solida dove sono contenute le proteine. Per fare questo facciamo sì che nella fase acquosa finisca la tossina. Ecco, voi alla fine che cosa quindi tirate fuori da un seme di iatropa? Perfetto, tiriamo fuori una fase di lignocellulosa che si può bruciare, olio, proteine e una fase acquosa che può essere utilizzata come biopesticida. Ecco perché è lì che si è concentrata sostanzialmente tutta questa tossina, no? Esattamente. Quindi 4 prodotti al posto di, diciamo, un prodotto e un rifiuto da smaltire. Questa è un po' la logica. Ecco, a che punto siete, diciamo, dello sviluppo della vostra attività? Beh, abbiamo installato un impianto dimostrativo con una capacità di 7.000 tonnellate a Firenze, dove facciamo test e ci... Quindi diciamo un impianto piccolo, sì, ma su scala industriale. Esatto, e prevediamo per il 2015 di avviare la fase di commercializzazione della tecnologia. Venturini, grazie e in bocca al lupo. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.